si debba tornare un po' indietro. Cioè io penso a una cosa del genere, cioè Giulio Sergio non era più in grado di restare in campo e doveva restare in campo semplicemente perché doveva difendere i pali, ma non li poteva difendere di fatto. Prova a immaginare se fosse stata una partita di Coppa e la Roma avesse sostituito tutti i suoi i tre possibili cambi e avesse dovuto giocare mezz'ora di supplementari con il portiere in quelle condizioni. Io credo che si possa o si debba anche pensare che in casi come questi, cioè non in casi come questi, che il regolamento debba tornare una volta, quando i cambi erano 3+1, cioè quando il portiere non era considerato nei cambi. Mm. Al massimo, perché un conto è giocare in 10 se un giocatore te lo cacciano, o un giocatore viene... un giocatore deve uscire perché non ce la fa più, ma è un giocatore extra portiere. Giochi in 10, va bene, ma il portiere non puoi avere in campo un portiere che non è in grado di intervenire. Che non è in grado di parlare. Non era in grado nemmeno di stare in piedi in quel momento. Noi ovviamente abbiamo riproposto 100 volte questa immagine, che a parer mio è stata una delle più forti della serata, proprio per la... anche la tenerezza che in un certo momento poteva fare vedere Giulio Sergio piangere di dolore e comunque voler rimanere in porta, perché la Roma poteva in quel caso far togliere la maglia a Giulio Sergio e mettere uno degli altri in porta, però è una riflessione che dobbiamo fare, così come non dobbiamo dimenticare che insomma, al povero Conè è andata bene, perché Giulio Sergio ha fatto un'uscita di quelle che... Ma io lì vorrei tornare, perché se l'arbitro russo avesse avuto la coscienza a posto e non ne avesse combinate fino a lì peggio di Carlo in Francia, l'uscita di Giulio Sergio è da espulsione tutta la vita. L'uscita di Giulio Sergio è da cartellino rosso. Ma rosso sai quanto? È evidente. Ed evidentemente Russo aveva capito o gli avevano detto, insomma, come è molto probabile, che ne aveva già combinate per i porci, esatto. Però in realtà ne ha combinata una in più, perché certo. Non è che per questo motivo ha arbitrato meglio, anzi, ha arbitrato peggio.